Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Buongiorno, benvenuti ad Effetto Giorno, un saluto da Maria Piera Ceci. Queste le principali notizie di oggi. Si sospetta un arresto finito male per la morte dello studente italiano Giulio Regeni, trovato senza vita al Cairo. Regeni aveva paura e chiedeva di firmare con uno pseudonimo i suoi articoli sul Manifesto, oggi sul Giornale l'ultimo suo articolo, nonostante la diffida della famiglia. E oggi arriva la squadra di investigatori che dovrebbe affiancarsi a quella egiziana. Il 12 febbraio si terrà a Cuba l'incontro fra il Papa e il Patriarca di Mosca Kirill, un incontro preparato da lungo tempo, si legge nel comunicato congiunto Santa Sede Patriarcato di Mosca. È la prima volta nella storia che un pontefice incontra il leader degli ortodossi russi. La fase di moderata crescita dell'economia italiana dovrebbe proseguire, lo scrive l'Istat nella nota mensile. Per le famiglie crescono la fiducia e il reddito disponibile anche grazie alla bassa inflazione. Per le imprese non aumentano i ritmi produttivi, peggiora il clima di fiducia e si riducono le prospettive di crescita. E i consumi nel 2015 registrano una crescita dell'1,6%, la prima dal 2007. Milano si prepara alle primarie del centro-sinistra. Domani e domenica si vota per scegliere il candidato sindaco. Stamattina ultimo incontro TV per Sala, Balzani, Maiorino e Iannetta. L'ex commissario Expo promette di portare a Milano alcune sedi di autorità e di istituzioni. Non piove da 3 mesi sul nord Italia ed è allarme siccità, precipitazioni mai così scarse da 200 anni, ma domenica dovrebbe finalmente piovere sull'Italia che festeggia il carnevale. Ieri sera su Rai 3 l'intervista a Luca Varani, mandante dell'aggressione con l'acido all'avvocatessa pesarese Lucia Annibali. L'ultima puntata di Storie Maledette ha toccato il punto più basso di ascolti. A seguire l'intervista sono stati 1.100.000 telespettatori con il 4,1% di share. Lucia Annibali ha fatto sapere di non averla vista e di essere andata a mangiare una pizza. Queste dunque le notizie principali di questa mattina. Ripartiamo dunque dalla morte di Giulio Regeni. Tanti sospetti, tante le ipotesi che si fanno per la morte dello studente friulano trovato senza vita, come sapete, al Cairo, dove non si avevano più notizie di lui dal 25 di gennaio. Oggi arriveranno esperti dall'Italia per affiancarsi agli investigatori egiziani. Il mondo politico chiede intanto a gran voce che sia fatto presto piena luce su quanto accaduto. Arriverà in giornata la squadra di investigatori italiani che collaborerà con la polizia egiziana per far luce sull'uccisione di Giulio Regeni. Il corpo del 28enne ricercatore italiano a Cambridge è stato consegnato dalle autorità egiziane all'ospedale italiano Umberto I del Cairo. Secondo fonti locali, citate dal quotidiano La Stampa e Il Manifesto, la pista più probabile sarebbe quella di un arresto sommario da parte della polizia egiziana nel 5° anniversario di Piazza Tahrir. L'Egitto è un paese che ha all'attivo più di 600 casi di persone scomparse. Sulla morte di Giulio Regeni è intervenuto su Rai 3 il ministro dell'Interno Angelino Alfano. L'alleanza con l'Egitto, i nostri consolidati buoni rapporti, per esempio l'Egitto è uno dei paesi con cui funziona il meccanismo dei rimpatri, spero che siano il fluidificante verso la verità. Giulio Regeni la verità la cercava e la scriveva. Sul Manifesto di oggi il suo ultimo articolo, scritto senza retorica e che dà immediatamente l'immagine di un paese devastato dalla prepotenza del regime in cui i lavoratori vengono schiacciati nei diritti basilari e ciò nonostante si organizzano e denunciano. Giulio aveva paura, da settimane chiedeva di firmare i suoi articoli per il quotidiano con uno pseudonimo. Non era un attivista ma uno studioso che si occupava del movimento operaio egiziano, raccontano dalla redazione del Manifesto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Salutiamo Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Allora, che idea ti sei fatto di questa vicenda, Regeni? Intanto cominciamo da questa cosa. È scomparso in una zona periferica del Cairo. Perché potrebbe essere andato lì, secondo te, Alberto? Ma lì ce l'hanno portato, non c'è mica andato con le sue gambe. Abitava in una zona lontanissima, ad occhi, e aveva un appuntamento in centro della città. Questa zona dove l'hanno trovata sta a chilometri e chilometri sulla strada di Alessandria che va verso il deserto, la Desert Road, nella zona 6 ottobre. Quindi è morto altrove e lì ce l'hanno portato. Comunque ecco. C'è un principio su cui non si può derogare, che è il seguente: più passa il tempo e più sarà difficile capire che cosa è successo. Quindi questi primi giorni sono fondamentali per le ricerche, per le indagini. Ovviamente. Allora, Alberto, lavoro sui sindacati che stava facendo questo ragazzo, forse contatti con le opposizioni al regime, lui che avrebbe detto di avere paura, per questo voleva firmare sotto pseudonimo gli articoli sul Manifesto. Oggi, tra l'altro, è uscito il suo ultimo articolo. Può essersi davvero messo nei guai in tal senso, secondo te? Ma innanzitutto facevo un lavoro su un argomento delicato, perché i sindacati, che poi indissero molti scioperi prima ancora della caduta di Mubarak e negli anni anche precedenti, sono stati un po' anche uno dei punti focali dell'opposizione al presidente egiziano a quell'epoca. Fu intorno agli scioperi di Kubra Mahal, dove c'è un grandissimo centro del tessile con migliaia e migliaia di operai, che si formò per esempio attorno a quel movimento il gruppo del 6 aprile. Il gruppo del 6 aprile intendeva proprio ricordare quelli che erano gli scioperi che c'erano stati negli anni precedenti. Quindi insomma lavorava su un argomento delicato, frequentava l'American University per forza di cose, che è sempre stata vista dal regime un po' come il fumo negli occhi, perché da lì sono partiti per esempio, come dire, una parte di quella rivolta arancione che fu quella che diede il via alle proteste anti Mubarak. Era probabilmente, come dire, attenzionato tra virgolette da parte dei servizi o della polizia. Poi chi abbia preso la decisione magari di prenderlo e arrestarlo, questo è sicuramente avvenuto non in una retata, perché se non ne avremmo avuto notizie, ci sarebbero stati indizi diversi, e invece è stato preso singolarmente. In un paese dove blogger, attivisti, sindacalisti, l'Egitto in nome di questa guerra, i jihadisti, si sta trasformando in un paese di censure, violenze e anche desaparecidos. Ma sì, sono centinaia di desaparecidos, mi spara almeno 600 o 700, ci sono stati 35-40 mila arresti nell'ultimo anno e mezzo, cioè l'Egitto è un paese che vive un forte regime di repressione. Questa repressione, collegata anche alla lotta antiterrorismo, in realtà poi è rivolta anche a tutti gli altri gruppi di opposizione, non solo i Fratelli Musulmani, ma anche a tutti coloro che in qualche modo, anche in maniera indipendente, assolutamente, come dire, laica, si interessano di quelli che sono i problemi di quel paese. Ecco, Alberto, secondo te il governo egiziano a questo punto come ne uscirà? Perché i rapporti diplomatici con il nostro paese si stanno facendo tesi. Beh, innanzitutto i rapporti diplomatici con il nostro paese erano già un po' problematici, nel senso che si guardava sempre a quelli che erano i dossier economici, no? Che in qualche modo progredivano e via discorrendo. Però per esempio si guardava poco al problema che abbiamo noi con l'Egitto, col generale Haftar, Califa Haftar, il generale di Tobruk, che è la carta che si gioca il generale al-Sisi in Libia e che contrasta con gli interessi italiani in Tripolitania. Questo lo scrivevo anche oggi. E poi insomma noi abbiamo trattato questo generale con i guanti bianchi, perché è stato Renzi, l'ho invitato in Italia ed è stato il primo viaggio dopo il colpo di Stato in Europa. Poi Renzi è andato lì due volte a incontrarlo, insomma sempre dandogli un molto credito e legittimando anche proprio il suo ruolo internazionale anche nei confronti degli europei. Ci aspettiamo adesso che questo generale venga incontro ai nostri desiderata, ma io ho molti dubbi. I generali e i rais in Medio Oriente fanno prima di tutto i loro interessi vitali e poi pensano ai nostri. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Matteo Renzi ha avuto una conversazione al telefono con François Hollande. I due si sono confrontati sulle principali questioni dell'agenda europea, a partire dai temi economici, le prospettive del negoziato con la Gran Bretagna, immigrazione e terrorismo. I due leader hanno condiviso la necessità di un rilancio di forte impegno europeista e di una politica economica centrata sulla crescita e la creazione di occupazione. La fase di moderata crescita dell'economia italiana dovrebbe proseguire, lo scrive l'Istat nella nota mensile, bene per le famiglie e meno per le imprese. Sentiamo. La crescita economica del paese proseguirà, ma sarà meno intensa. Andrà meglio per le famiglie, a seconda dei settori, invece per le imprese. E allora partiamo da qui. Il comparto manifatturiero va in altalena. A novembre il rallentamento congiunturale di produzione e fatturato ha bilanciato l'aumento registrato a ottobre. Nel periodo andato da novembre a gennaio gli indicatori hanno segnalato un aumento dell'attività produttiva, ma nei prossimi mesi l'incertezza sull'intensità della ripresa sarà la regola. Tant'è che anche il clima di fiducia delle imprese manifatturiere a gennaio è risultato in leggero calo. Storia un po' diversa per il settore delle costruzioni, dove si cominciano a raccogliere i primi risultati positivi. Nel primo semestre del 2015 i permessi di costruire hanno registrato un incremento. Meglio vanno le cose per le famiglie. Nel terzo trimestre 2015 il potere d'acquisto è aumentato dell'1,4%. Gli italiani però preferiscono risparmiare più di quanto vogliano spendere. A gennaio è migliorato anche il clima di fiducia. Uno scenario confermato da Confcommercio. Fiducia ai massimi, ma una domanda ancora sottotono, sebbene in crescita rispetto al 2014. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Unioni civili e il disegno di legge Cirinna. Il ministro Alfano dice: non minaccio la crisi, cerco un accordo con il PD. In diretta da Roma, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. È il momento del tentativo di una mediazione, quello in corso in queste ore nella maggioranza sulle unioni civili. Partito Democratico e centristi puntano infatti a trovare un compromesso prima delle votazioni della prossima settimana, che potrebbero segnare un punto di non ritorno, a maggior ragione se sul testo Cirinna convergessero compatti i voti del Movimento 5 Stelle, determinando di fatto su questo tema una maggioranza alternativa. E di questa ipotesi parla proprio il segretario dell'UDC Cesa, che avverte: se ci sarà un asse tra PD e 5 Stelle, l'UDC ne prenderà atto, non ci resterà altro da fare che uscire dalla maggioranza. Più diplomatico il leader del nuovo centrodestra Alfano, che dice: non ho mai minacciato il governo sul caso delle adozioni per le famiglie omosessuali, farò di tutto per arrivare ad un accordo. Il PD però si dimostri un partito della nazione, dato che la maggioranza degli italiani è contro le adozioni gay. Tutto ruota allora attorno al nodo della stepchild adoption. Apre la strada alla pratica dell'utero in affitto, commenta il ministro Lorenzin. Dal PD a replicare il senatore Chiti: sono inaccettabili i no a prescindere. Diritti anche ai gay sulle adozioni, aggiunge Scalfarotto. È tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta, notizia di pochi minuti fa. Ebbene, arriverà domani alle 13 a Fiumicino la salma di Giulio Regeni. Parlavamo poc'anzi della morte del ricercatore universitario in Egitto. Domani la sua salma tornerà in Italia. Il Papa e il Patriarca di Mosca Kirill si incontreranno a Cuba il 12 febbraio, quando il Papa farà una tappa prima del viaggio in Messico. Lo annunciano congiuntamente Santa Sede e Patriarcato di Mosca, definendolo storico incontro. I due si incontreranno all'aeroporto di Cuba e rilasceranno una dichiarazione comune. E migliaia di fedeli stanno sfilando davanti alle reliquie di San Pio, reliquie che poi nel pomeriggio verranno traslate in piazza San Pietro. È lì per noi Giorgio Stamatopoulos. Giorgio. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, ed è veramente un afflusso impressionante, anche se tutt'altro che inatteso. Una lunga coda silenziosa di fedeli giunti anche oggi da tutta Italia per visitare le spoglie dei due santi cappuccini nella chiesa di San Salvatore in Lauro, ultima tappa prima appunto dell'arrivo in San Pietro. In maggioranza si tratta di anziani in attesa anche da ore per salutare soprattutto lui, Padre Pio, vero protagonista dell'evento destinato con tutta probabilità a rimanere fra i più importanti di questo anno santo dedicato alla misericordia. Il perché di tanta devozione al Ferrate di Pietrelcina lo abbiamo chiesto al parroco della chiesa, Don Pietro Bongiovanni, ascoltiamolo. È un santo che ha vissuto sulla sua pelle tanti disagi, per cui la gente si sente capita, si sente accolta e compresa. È un atto di affidamento che muove il cuore delle persone. Se voi vedeste in chiesa, stanno aumentando a vista d'occhio i biglietti con nomi, storie, problemi, implorazioni di gente che si affida a Padre Pio perché porti le preghiere a Gesù. Questa sosta nella chiesa di San Salvatore in Lauro, dicevamo, è stata decisa perché qui sono custodite alcune delle reliquie più importanti del frate di Pietrelcina. Fra meno di un'ora, vale a dire alle 14, l'ultima messa solenne prima della processione in Vaticano, con l'altare allestito sul sagrato per accogliere tutti e due maxi schermi. Poi tutti in marcia dalle 16 per accompagnare i due santi appunto a San Pietro, dove resteranno fino a giovedì prossimo. Infine, da ricordare, insomma, per ricordarci che siamo nel 2014, l'imponente apparato di sicurezza che accompagna l'evento con unità cinofile, metal detector e continue bonifiche della piazza. Per il momento è tutto. Grazie, grazie a Giorgio Stamatopoulos. E cambiamo decisamente argomento, perché è comparso qui accanto a me Carlo Genta a ricordarci che è venerdì, quindi siamo alla vigilia di un altro weekend di grande sport, Carlo. Di grande sport, esatto, non solo di calcio, perché se continua la corsa a scudetto, per il momento con duelli a distanza in attesa di Juventus-Napoli, che sarà invece sabato prossimo, c'è Frosinone-Juventus domenica, il Napoli riceve il Carpi, quindi le penultime due della classe. L'ultimo invece, cioè il Verona, affronta l'Inter, quindi la classica domenica da testa a coda, nella quale cercare di non perdere il passo per arrivare con le stesse distanze al confronto diretto, almeno per quanto riguarda Napoli e Juventus. Però non c'è solo il calcio, eh? No, non c'è solo il calcio, perché c'è anche il rugby, con un Sei Nazioni che inizia, tra l'altro domani per l'Italia la partita di apertura alle 15:30 contro la Francia, sfida difficilissima, è dire poco, però Sei Nazioni, grande torneo, grande spettacolo che noi in particolare seguiremo con molta attenzione già da oggi e per tutti i venerdì del Sei Nazioni, venerdì e domenica in tutti i convocati e in tutti i convocati weekend avremo degli speciali, dei collegamenti, degli approfondimenti, certo. Cosa che accadrà anche nei GR e accadrà anche sul sito, sul giornale, Sole 24 Ore, insomma, seguirà con grande attenzione la palla ovale. In uno stadio, peraltro, domani la partita che riapre dopo le vicende del 13 novembre. Lo Stade de France riprende a vedere finalmente lo sport. Riprende vita. Sì, grazie Carlo. Questo è molto importante. Grazie a te, Piera. Grazie Carlo. Noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo insieme con Effetto Giorno. Effetto Giorno. Domani alle 13 l'arrivo a Fiumicino della salma di Giulio Regeni. Si sospetta un arresto finito male per la morte dello studente italiano. Regeni aveva paura e chiedeva di firmare con uno pseudonimo i suoi articoli sul Manifesto. Oggi sul giornale è l'ultimo suo articolo. Il 12 febbraio si terrà a Cuba l'incontro fra il Papa e il Patriarca di Mosca, Kirill, un incontro preparato da lungo tempo, si legge nel comunicato congiunto. È la prima volta nella storia che un pontefice incontra il leader degli ortodossi russi. Milano si prepara alle primarie del centro-sinistra. Domani e domenica si vota per scegliere il candidato sindaco. Stamattina ultimo confronto TV per Sala, Balzani, Maiorino e Iannetta. L'ex commissario Expo promette di portare a Milano alcune sedi di authority e di istituzioni. Non piove da 3 mesi sul nord Italia ed è allarme siccità. Precipitazioni mai così scarse da 200 anni. Ma domenica dovrebbe finalmente piovere sull'Italia che festeggia il carnevale. Domani riparte il Sei Nazioni di rugby, che Radio 24 seguirà con collegamenti nei GR e nei programmi, e torna a vivere lo Stade de France dopo gli attentati del 13 novembre a Parigi. Ieri sera su Rai 3 l'intervista di Francesca Leosini a Luca Varani, mandante dell'aggressione con l'acido all'avvocatessa pesarese Lucia Annibali. L'ultima puntata di Storie Maledette ha toccato il punto più basso di ascolti e Lucia Annibali ha fatto sapere di non averla vista e di essere andata a mangiare una pizza. Ripartiamo dunque dal voto delle amministrative. Il fine settimana, lo dicevamo nei titoli, il fine settimana che sta per cominciare è importante per Milano, dove si svolgeranno le primarie del centro-sinistra. Raffaella Calandra le seguirà per noi. Ciao, allora, Piera. Buongiorno Raffaella, cominciamo un po' da qualche nota di servizio. Dove si vota, come si vota, che cosa bisogna portare? Allora, si vota sabato ma soprattutto domenica. Sabato soltanto in 9 seggi, uno per zona. Domenica invece in 150 seggi, che sono anche i più diversi. Si vota anche in pizzeria, in alcune pizzerie, alcune librerie indipendenti, in alcuni circoli arci. Si approfitta per mangiarsi una pizza e poi si vota. Perché giusto? No? Perché no? Bisogna portare con sé soltanto un documento di identità. Non è più necessaria la carta, il documento elettorale, la scheda elettorale. Un documento di identità, bisogna aver compiuto 16 anni, quindi il voto aperto anche ai non maggiorenni, e un voto aperto anche agli stranieri che sono residenti a Milano. Bisogna pagare 2 euro, una donazione minima di 2 euro e poi semplicemente scegliere. E chi si vota? Perché tra chi si può scegliere? 4 i candidati per queste primarie del centro-sinistra: l'ex Mister Expo Beppe Sala, la ex vice sindaca uscente Francesca Balzani, l'ex assessore uscente della giunta Pisapia Pierfrancesco Maiorino e l'outsider Antonio Iannetta, già manager dell'Unione Sportivi Sport per Tutti. Che stamattina si sono visti per l'ultima volta, o perlomeno si sono visti insomma tutti insieme davanti a una telecamera per gli ultimi appelli. L'ultimo confronto televisivo. Queste ore sono infatti ore di ultime schermaglie tra i quattro. È stata una campagna elettorale anche abbastanza pungente tra loro quattro, e ultime ore soprattutto di appello al voto lui ha un voto utile. L'obiettivo del centrosinistra, del PD soprattutto, è quello di raggiungere quantomeno la soglia dei 67.000 votanti che si ebbero nel 2010, quando le primarie a sorpresa incoronarono Giuliano Pisapia, anche diciamo andando un po' contro le previsioni che c'erano state, e il candidato del Partito Democratico, che gli ascoltatori ricorderanno all'epoca era Stefano Boeri. Questo è quello che, in cui ancora spera Francesca Balzani, soprattutto, che ha ottenuto negli ultimi giorni l'endorsement del sindaco uscente Giuliano Pisapia. Sentiamola nelle sue ultime parole di questa mattina. Qual è stato l'errore? Partiamo dall'errore, l'errore più grande del suo sindaco e poi il merito. Non lo chiamerei un errore, ma senz'altro non essersi ricandidato è stato, ha dato un grande dispiacere a tutti i milanesi. Ecco, Milano, sì, ecco, questo è il fatto. Balzani dice Pisapia si sarebbe dovuto candidare. Questo è stato un po' il tema anche fino alla fine, insomma, delle elezioni su Milano, che hanno un peso per il Partito Democratico di tipo nazionale. Tutti guardano all'esito di queste primarie. Pisapia un po' verso la fine, alla fine si è pronunciato a favore della sua vice sindaco, cercando di convogliare l'eredità di quella rivoluzione arancione appunto sulla sua vice. In realtà poi gran parte della sua squadra si è già pronunciata a favore di Beppe Sala. Ci sono ben 7 assessori che stanno al fianco di Beppe Sala e un altro assessore al fianco di Maiorino, quindi diciamo la continuità quantomeno amministrativa è sparpagliata. Il tema in queste ore è, oltre alla, diciamo, ad un appello al voto utile che c'è stato da parte della Balzani, facendo un pressing su Maiorino soprattutto perché fino alla fine gli è stato chiesto di fare quel passo indietro che in qualche modo potesse convogliare i voti anti-Sala, cioè questo spettro del partito della nazione, cioè in qualche modo sì, di evitare a Milano quelli che sono i temi che stanno in qualche modo creando mal di pancia e tensioni del Partito Democratico. Lo vogliamo nazionale. Sentire Sala? Sentiamo Sala, che però ha parlato anche di un aspetto che tu ricordavi, che era quello di proseguire l'operazione di internazionalizzazione di Milano, portando iniziata anche Authority. Io spero di essere io la persona che potrà fare di più per il respiro internazionale di Milano. L'Expo l'ha dimostrato, i milanesi hanno voglia. Questo dunque appunto Sala, che vuole proseguire appunto l'internazionalizzazione di Expo, facendo un po' un bilancio di questa campagna elettorale. Quello che mediaticamente, soprattutto sui social e tra i più giovani, ha bucato di più è stato sicuramente Maiorino. Anche diciamo, gli studiosi di social lo hanno notato, e tutti quanti hanno per ora assicurato lo sostegno al vincitore di queste primarie, avendo il rispetto di quella carta dei valori del centrosinistra che hanno sottoscritto. Questo sarà sicuramente il tema dopo il voto di domenica sera. Sabato e domenica racconteremo dunque questo voto milanese, e quindi Raffaella ci ritroveremo qui nei certo. GR e nei programmi. Grazie mille Raffaella Calandra, e sul futuro di Milano sentiamo l'analisi di Daniele Biacchessi. Nella partita delle primarie si gioca anche il futuro di Milano, non solo quello del Partito Democratico a livello nazionale. In campo si scontrano non solo candidati diversi per la loro storia, per le loro esperienze, anche due concezioni diverse e contrapposte di governo della città. Giuseppe Sala è essenzialmente un manager prestato alla politica, e il suo ruolo lo svolge fin dai tempi della giunta guidata da Letizia Moratti. In sostanza, la sua concezione di città modernista e accattivante, che guarda al centro più che alle periferie della metropoli, mette d'accordo la parte renziana del PD e il centrodestra. E durante la campagna elettorale Sala si è smarcato dal suo passato e si è presentato come il sindaco del ceto medio milanese. In sostanza, il sindaco di tutti. Sulla sua corsa a Palazzo Marino potrebbero pesare le polemiche sul bilancio di Expo. Pur da culture diverse, Francesca Balzani e Pierfrancesco Maiorino propongono una città più inclusiva, che si muove nel segno della giunta di Giuliano Pisapia e che accentua il carattere sociale del governo della città. Ambiente, cultura, periferie, case popolari, welfare. Anche se la cosiddetta rivoluzione arancione della stagione dei sindaci 2011 è ormai finita, con i candidati Balzani e Maiorino si respira evidentemente un clima di continuità con le scelte dei 5 anni precedenti. E sulle primarie di Milano pesa ancora l'incognita del centrodestra, che sta a guardare in attesa di vedere le prossime mosse. Questa è l'analisi di Daniele Biacchessi, e ora andiamo a Napoli perché ieri si è chiarito il quadro dei candidati alle primarie del 6 marzo. 4 candidati ed un unico grande favorito. Antonio Bassolino, già amatissimo sindaco dal 1993 al 2001, poi la non altrettanto felice esperienza in regione. È lui il più gettonato a sfidare l'uscente De Magistris ed il candidato del centrodestra Lettieri. E colpisce l'entusiasmo quasi giovanile del 69enne Bassolino rispetto ai giovani avversari. Marco Sarracino, classe 1989, segretario provinciale dei Giovani Democratici, il più giovane membro della direzione nazionale del PD. Giovane anche l'onorevole Valeria Valente, 39 anni, bassoliniana doc. È stato Bassolino a lanciarla in politica. C'erano anche lei e il marito, ex consigliere comunale, quando Bassolino ha ufficializzato l'intenzione di ridiscendere in campo. Esponente del Partito Socialista, corre per le primarie anche l'oncologo Antonio Marfella, da anni in prima linea sul tema della terra dei fuochi. Non ci sarà invece l'ex sottosegretario Umberto Ranieri, la cui candidatura non è stata ammessa. Una manifestazione di ottusità burocratica ed un grave errore politico, il suo commento. Ranieri aveva provocatoriamente presentato le firme di simpatizzanti di centrosinistra, contravvenendo al regolamento che impone per presentare le candidature solo firme di iscritti al partito. Al voto però poi sono chiamati tutti. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lasciamo la pagina dedicata alle amministrative, perché ieri sera su Rai 3 è andata in onda l'intervista di Francesca Leosini a Luca Varani, il mandante dell'aggressione con l'acido all'ex fidanzata, la ricorderete, Lucia Annibali. Un'intervista preceduta dalle polemiche che però continuano. Tante le polemiche ma pochi gli ascolti, perché l'ultima puntata di Storie Maledette ha toccato il punto più basso di ascolti. È stato battuto da Don Matteo, Il Segreto, Virus, l'incredibile Hulk. Lucia Annibali da parte sua ha fatto sapere di non averla vista perché di Varani non vuole più sentire parlare, insomma si è andata a mangiare una pizza. Parliamo di tutto questo con Davide Maggio, che salutiamo. Buongiorno Davide. Buongiorno. Blogger, esperto di TV. Inutile chiederti se l'hai vista, perché se non l'hai vista tu questa intervista. cambi mestiere. I Leosiners, quindi diciamo che rientro un po' nella categoria. È impazzita questa notte la rete social, perché ha un suo modo molto particolare di condurre le interviste, Francesca Leosini, e appunto su questo si sono anche incentrate le polemiche, perché dicono che sostanzialmente è venuta fuori da questa intervista una Lucia Annibali che quasi fosse lei la stalker di Varani. Tu sei di questa opinione? Bah, guarda, ti dico la verità, io credo che Varani, nonostante tutto ciò che abbiamo sentito nei giorni precedenti, non ne sia uscito benissimo, perché a me è sembrato quasi che lui volesse fare sicuramente una ammissione di colpa, però con delle riserve molto forti, soprattutto sul piano umano, per cui ha voluto un attimo preservare la sua posizione da un punto di vista umano, e che in una situazione del genere è sicuramente molto forte. E proprio da questo punto di vista l'Annibali è venuta fuori quasi come la vera persecutrice, stalker. Sì, esatto, che è una cosa che non mi ha fatto molto piacere, a dire la verità, anche se devo essere sincero, in generale tutta l'intervista, sia per l'impostazione che ha dato la Leosini, sia poi per l'atteggiamento di Varani, è stata secondo me poco efficace, perché ho trovato innanzitutto la Leosini molto, troppo attorale, quasi a voler rubare la scena al vero protagonista, che era Varani. Anche perché Varani rispondeva quasi a monosillabi in certi momenti, quindi ha dovuto lei prendere in mano la situazione, sennò questa intervista quasi non c'era. Esatto. Quindi c'era questo atteggiamento dismesso da parte di Varani, che appunto secondo me aveva l'obiettivo che ho detto poc'anzi, quindi quello di quasi avere una scusante sul piano umano, questo pentimento, questa ricerca, come dire, della scusante appunto sul piano umano. Però Davide, ti fermo un istante perché vorrei farla sentire un pezzettino di voce di Varani. Io non posso aiutarla. Se posso aiutarla dicendo che mi dispiace, che sono pentito, lo dico, ma perché è la verità, perché quello che sto vivendo mi ha fatto capire gli errori che ho commesso. Con quanta leggerezza ho vissuto certe situazioni, con quanta superficialità l'ho ferita nei sentimenti e poi l'ho ferita anche fisicamente. So che dovrà combattere, chiedo un giorno se potrà perdonarmi, perché sono sicuro che sarà possibile, sarà una cosa che farà del bene anche a lei. È stata molto criticata anche questa frase, eh sì, no? È stata... Sì, assolutamente sì. È proprio, ma hai scelto secondo me un passaggio importante che poi riassume un po' tutto, cioè mi sembrava anche da parte di Varani una cosa molto recitata e molto studiata, tra l'altro, perché ricordiamo che tutte le polemiche ci sono state proprio perché c'è stata soltanto, cioè siamo in attesa della sentenza definitiva della Cassazione, per cui anche probabilmente un percorso processuale che non è finito, è chiuso, certo. Esatto. E quindi un quarto grado televisivo che precede il terzo, quello nelle aule di giustizia. Secondo me no. Davide, grazie mille. Davide, grazie. Maggio, blogger, esperto di TV, lo ringraziamo. Noi intanto ci fermiamo per qualche istante. Effetto giorno. Domani alle 13 l'arrivo a Fiumicino della salma di Giulio Regeni. Si sospetta un arresto finito male per la morte dello studente italiano che aveva paura e chiedeva di firmare con uno pseudonimo i suoi articoli sul Manifesto. Oggi sul Giornale il suo ultimo articolo. Il 12 febbraio si terrà a Cuba l'incontro fra il Papa e il Patriarca di Mosca Kirill, un incontro preparato da lungo tempo, si legge nel comunicato congiunto. È la prima volta nella storia che un pontefice incontra il leader degli ortodossi russi. Non piove da 3 mesi sul nord Italia ed è allarme siccità, precipitazioni mai così scarse da 200 anni, ma domenica dovrebbe finalmente piovere sull'Italia che si prepara a festeggiare il carnevale. E comincia oggi il carnevale anche a Rio de Janeiro, pesa sui 5 milioni di partecipanti a Rio, così come in tutto il Brasile, la minaccia di Zika, il virus che ha già colpito 20 paesi, fra cui l'America Latina e i Caraibi. Notizia dell'ultima ora, un nuovo caso di infezione da virus Zika è stato confermato in Italia, sarebbe il quinto. Ed ora le borse. Effetto giorno. Emergenza siccità in Italia. Negli ultimi mesi ha piovuto davvero pochissimo e gli agricoltori sono in grande difficoltà. L'acqua manca per l'agricoltura nel nord-ovest, in Emilia-Sardegna. Regge il sud, che invece è più attrezzato a fronteggiare la siccità, sostiene il direttore generale di AMBI, l'Associazione Nazionale dei Consorsi di Bonifica, Irrigazione e Miglioramento Fondiario. Ha intervistato Massimo Gargano, la nostra Laura Bettini. Guardi, c'è una grande possibilità di intervenire. Le autorità di bacino, insieme ai consorsi di bonifica, i soggetti che operano nel turismo e nello sfruttamento dell'idroelettrico per produrre energia, debbono indubbiamente coordinati, noi diciamo dalle autorità di bacino, essere messi insieme proprio per governare e distribuirsi un disagio. Nel frattempo dare impulso a quella grande innovazione che è stata messa in campo con il progetto del Reframe, che ha consentito nel 2014 un risparmio di 500 milioni di mezzi cubi di acqua solo come contributo dell'agricoltura nell'utilizzo della risorsa, poi bisogna finalmente che entri nella testa e nella cultura dei decisori di questo paese che queste problematiche saranno sempre più frequenti con i cambiamenti climatici, allora bisogna attrezzarci per avere d'inverno quanti più bacini, invasi, piccoli invasi, chiamiamoli come vogliamo, per trattenere quest'acqua sul territorio, di modo che nelle emergenze noi si abbia quell'acqua a disposizione per l'agricoltura irrigua e per gli operatori del turismo. Si aspetta dunque con ansia la pioggia che venga a scongiurare la siccità, anche se questo è fine settimana di carnevale, la pioggia potrebbe anche rovinare la festa, è così Paolo Corazzon? Ce la rovinerà la festa? Purtroppo in parte sì, ma solo in parte, perché guardate, si parte nel weekend con condizioni meteo ancora buone, in realtà la giornata di domani vedrà ancora ampie zone di sereno in tutta Italia, però ecco sulle regioni di nord-ovest, quindi Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria, già domani sera aumentano le nubi, prime gocce di pioggia, ma sarà domenica la giornata di maltempo, non per tutti, avremo il nord Italia sotto nuvole e pioggia abbastanza battenti, poi anche le regioni del medio alto Tirreno, quindi la Toscana, il Lazio, coinvolta anche l'Umbria, vedranno nel corso di domenica un peggioramento del tempo, tornerà anche la neve sull'arco alpino anche in maniera abbastanza consistente, fino a 30-40 centimetri di neve, quindi a notizie anche positive dal punto di vista appunto della siccità. Invece zone d'Italia tipo il medio Adriatico e il sud avranno un weekend comunque secco, senza precipitazioni. Aggiungo che è ovvio che le piogge di questa domenica non basteranno a risolvere il problema della siccità. No, certo. Pensate che dall'estate a oggi in Italia ha piovuto mediamente solo un quarto di quanto avrebbe dovuto, quindi siamo con un deficit idrico ancora particolarmente marcato. E che quindi piova anche se ci sono le maschere di carnevale. Grazie a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. E lo dicevamo, comincia il carnevale in Italia, ma comincia anche a Rio de Janeiro. Questo però non sarà un carnevale come gli altri, perché pesa naturalmente il virus Zika che sta facendo vittime in America Latina. Oggi diverse le notizie in tal senso. La prima, l'abbiamo detta prima, un nuovo caso di infezione da virus Zika è stato confermato in Italia e sarebbe il quinto, e si sarebbero verificati nel 2015 almeno due casi di trasmissione del virus tramite trasfusione di sangue. Stiamo parlando di Brasile in questo caso, lo riportano i media appunto brasiliani. E poi ci sono le parole del ministro dello sport brasiliano George Hilton: cancellare le Olimpiadi di Rio de Janeiro a causa dell'epidemia di Zika è una possibilità non in discussione. Il nostro Lorenzo Simoncelli è andato a Recife, nord-est del Brasile, la città più colpita dall'epidemia, in un ospedale dove vengono seguiti i bambini colpiti da microcefalia. Sentiamo. Recebendo esses casos de microcefalia, porque normalmente a gente já recebe infecções congênitas. Desde setembro nós estamos acompanhando. Atualmente já está em torno de pelo menos 300 crianças sendo vistas aqui dentro das notificadas. Negli anni scorsi i casi di microcefalia nello stato di Pernambuco erano circa 15 all'anno, 150 in tutto il Brasile, spiega la dottoressa Angela Rocha, primaria di infettivologia pediatrica all'ospedale Osvaldo Cruz di Recife. Ma da settembre ad oggi abbiamo visitato almeno 300 bambini. Quasi tutti avevano il cranio inferiore ai 32 centimetri, un tipico segnale della malformazione cerebrale. Dentro da condizione dela, o apoio che essa criança vai ter dentro de uma saúde pública. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, i casi accertati di microcefalia sono 270 in tutto il paese. Di questi 138 solo nello stato di Pernambuco, anche se la certezza scientifica della correlazione con lo Zika virus al momento è stata riscontrata solo in 6 situazioni. Só depois que ela nasceu que eu descobri, na gravidez não foi constatado nenhum exame, não apareceu. Aí eu fiquei muito desesperada, né? Porque ho scoperto che mia figlia aveva la microcefalia al giorno del parto, racconta Josenilda Soares, 24 anni, madre di Laila Sofia. Nessun esame in gravidanza aveva indicato possibili disturbi cognitivi. Quando il pediatra me l'ha comunicato ero disperata, sotto shock. Non ne avevo mai sentito parlare di questa malattia. Adesso sto iniziando ad informarmi, ma sono molto preoccupata per il futuro di mia figlia. Non ci sono cure e dovrà essere sottoposta a trattamenti specifici, per sempre. Aí para mim foi um choque, porque eu só fiquei sabendo no outro dia que eu tive ela. Per Laila Sofia e Josenilda, disoccupata e abbandonata dal compagno durante la gestazione, è arrivato il momento della visita. La dottoressa Rocha le mostra l'attacco della figlia. Con garbo e semplicità prova a spiegarle un'immagine che non bisogna essere medici per decifrarla. E questo era un assaggio del reportage da Recife che andrà in onda domenica alle 8:15. Noi ci fermiamo per stare in diretta, poi Mario Platero ed America 24.